cercarla in città. Sì, anch'io lo dico. Ma Federico è tanto innamorato, trova lei sola il fiore d'ogni virtù. Non è l'arlesiana, la stregato. Ma conoscete voi quella fanciulla per tirarmela in casa? Io no, per nulla. Così, senza conoscerla dunque, padrona rosa, consentirete salutarla, sposa del fiol vostro? Oh no! Ti rassicura, madonna, come sai sta mio fratello? Padron Marco! Gli occhi qui li ha avuti assai. Ma non per le civette. Oh, la champagne! Marco, io rocco i fiatti del bello alla sordina. Un occhiato di cuore ti la una parolina. Facendo il gonzo in nuovo son certa scoprirò perfino il bel nell'uovo. Fra poco è qui per voi. Quella di te non degna, ti lo toglio. Sei già Thank you.

tu ancor non appariva la stella del mattino ricercare un mio giappo stai clima l'ho chiamato per nome penetrando i canneti ecco soltanto rispondevi come la Dio mio, dov'è? Fatevi cor, materina, non piangete, e lo sa che per lui conta, e Dio insolvete, ritornerà. Ah! Che cosa madre ti cercava e vivetta. Queste donne mi danno tu soffri. No. Tutto scordo